noi siamo forti, noi siamo pronti per attaccare. Grande capo bianco vuole carne da cannone, e che sia bello morire insieme. Siamo forti.